Ciao a tutti, buongiorno. Questa volta voglio parlare del telelavoro. Questa è un'opzione importante per lavorare a distanza e non bisognerebbe lavorare a casa propria. Forse, non lo so, un ristorante, in un caffè, in un parco. Dobbiamo guardare che la situazione non è vigiliare che le persone lavorino tante ore insieme. Credo che il punto sia planeare obiettivi e scopi per cumplire, scusi, per cumplire alla settimana. Di qual modo è amministrato il tempo, non dipende dell'azienda, dipende di chi lavora per l'azienda. Insomma, sicuro sì, le persone cumpliamo con gli scopi alla settimana. Basta così. È abbastanza per cumplire con gli scopi alla settimana. E il modo in che le persone gestione il suo tempo è assunto suo. E non le frega niente all'azienda. E ripeto, intanto cumpliamo con le scopi alla settimana. Forse avete un'abitudine di vigilare alle persone che stanno lavorando 8 ore. 4 ore insieme di seguito, forse 1 ora per mangiare qualcosa e oltre 3 ore per continuare con il lavoro, ma non è così che credo io deve diventare lavoro. Non è così, perché non farebbe differenza. In relazione con il lavoro in ufficio. Il telelavoro è per lavorare a distanza. E credo io è un'altra concezione e credo che come ho parlato. Insomma, è così che penso che dobbiamo lavorare. E credo che così che il lavoro via a evoluzionare nel futuro prossimo. Questo è il telelavoro. Va bene? Ciao a tutti e grazie.